La casa di Hamamatsu sfodera nuovamente gli artigli e rilancia la sua moto dei record. Il peso è elevato, ma il motore è una cannonata e la ciclistica convince per il suo equilibrio anche nell'uso in pista. Nome: Suzuki GSX R 1300 Hayabusa. Dimensioni: lunghezza 2190 mm, larghezza 735, altezza sella 805, interasse 1400, peso a secco 243 kg. Motore: 4 cilindri in linea trasversali a 4 tempi, raffreddamento a liquido. Cilindrata 1350 cm3, distribuzione bialbero a canne in testa con 4 valvole per cilindro. Potenza 197,2 cavalli a 9500 giri. Trasmissione: cambio a 6 marce, finale a catena. Freni: a doppio disco anteriore da 310 mm, posteriore a disco singolo da 260 mm. Prezzo: 14.080 euro, chiavi in mano.